occhi su di te stanno scivolando, e quanto manca ancora, quanto manca per la. Cosa penserai di me se son matto, son bastardo, quando dico che non credo a nulla in questo immenso che dura tutta una vita, un minuto così, e non riesco più a parlare in questo immenso che c'è fra le tue mani. Oh no no no no. I tuoi occhi su di me, dimmi dove stiamo andando, quando dici che non credo a nulla, in questo immenso che dura tutta una vita, un minuto così, e non riesco più a parlare in questo immenso che c'è fra le tue mani. Soy más.